I loro studi hanno avuto un impatto nella ricerca della scienza della vita incredibile, e quindi negli ultimi anni hanno aperto un nuovo campo di ricerca, dimostrando per la prima volta che una cellula adulta differenziata può ringiovanire a stato di cellula embrionale, acquisendo le caratteristiche tipiche di una cellula embrionale e quindi la capacità di essere una cellula staminale. In poche parole, è il tempo biologico di differenziamento di una cellula è reversibile, e questo ha avuto ovviamente un impatto, prima cosa culturale, proprio su conoscere i meccanismi biologici del differenziamento cellulare che prima di questi esperimenti non erano conosciuti. Shinya Yamanaka è un giovane ricercatore, adesso ha compiuto i 50 anni, iniziò questi esperimenti non credendoci nemmeno lui, con l'idea di dimostrare che ciò non potesse essere vero, e quindi provando a ringiovanire una cellula con alcune tecniche che aveva in laboratorio. E fu lui il primo a essere sorpreso di questa cosa, e ai primi congressi le sue scoperte non erano, diciamo, erano prese in modo abbastanza tiepido, perché ovviamente era un cambio di idea così profonda che gran parte della comunità scientifica inizialmente ha fatto fatica ad accettare. E devo dire, solo nel corso di 2 anni di intense ricerche del suo gruppo, diciamo, ha dimostrato anche ai più, diciamo, increduli che questa cosa era vera. Quindi noi l'abbiamo vissuta veramente questo sviluppo di queste tecnologie nel corso di questi sei anni, perché il Nobel è dato per la scoperta pubblicata su Cell nel 2006.